Ciao, c'è per scavo. Direzione orbita. Direzione orbita, orbita, orbita, come sempre. Ha ha ha. È capitato a te. Che mi stai parlando così dove? Io ogni tanto mi dice qualche cosa. Ci vuole, già ci vuole. Qualche volta mi è capitato veramente di parlare un po' con il vostro dialetto, diciamo, ma un po' così, e qualcuno ha detto, dice, ma chi sei, Giovanni? Yeah. buon impianto di riscaldamento. Io proprio la settata ai portaporiani a regolamento. E a mo? L'amico, Gianni, che ti accompagnava, che fine ha fatto? Gianni, mannaggia. Che fine avrà fatto, Gianni, capo, frega, fa questo di Moros. Capri 2, sì, Capri 2. Capri 2, ma non l'ho più sentito, non l'ho più sentito a Capri 2. Ah, guarda, dico la verità, sono un bel po' di tempo che non lo sento neanche io, Positivo, forse anche io. Tanto appaiono, spariscono, riappaiono, un po' come passate, davvero, siamo come fantasmi, Domenico, che ci vuol fare? Che ci vuol fare? Ma io dico solo, mi vuole sentire o di sera ci sono, poi, dopo? Beh, Domenico, io già lo sai, quando sono in frequenza, mi senti sempre. Poi, chi non mi vuole ascoltare, faccia come bene crede di voler fare, tutto qua. E si conferma. È vero. Sì, è così, è così dove... Già va bene che va bene. Bellissima domenica, una bella radio, veramente ti ha fatto una radio splendida, veramente in gamba. Tu a me non mi cuppi sempre, bene, male, come mi cuppi, dimmi, domini, tu! Non c'è più Nessuno che entra, cosa entra qua? Dice, non entri, non entri mai. Ma se non vai di su, se cazzo entra qua. Cosa entra qua, riposa all'asti? Ma vai. Infatti, hanno venuto un casotto. Un casotto. Via, per carità. Non commente, non commente. Adesso vediamo un po', ma cosa faremo? Mi hanno attaccato di nuovo il VU per vedere se andava. Funziona perfettamente, adesso domani lo stacco. E così va attaccato il volante, eh? Fili volanti, così veloce. Cioè fili volanti, lui ha fatto il suo originale, no? Prima l'ha fissata bene con la staffa. E adesso vediamo un po'. Ah, adesso metto su cosa? Su eBay, lo metto su eBay. Ah, avete in vendita? Allora. Si è pagata. Come mi vuoi fuori? Ma quello ti serve per ascoltare, quello. Quello trasmette anche. Ho capito. Ma non puoi trasmettere con quello. Possono trasmettere, a seconda della frequenza, a seconda della frequenza non possono trasmettere anche la donatura. Come vedo? A seconda delle frequenze non possono trasmettere neanche la donatura. Ah, beh, c'erano delle frequenze particolari, giustamente. Poi per niente, proprio zero completamente. Mentre la riavatturi posso entrare in certe frequenze. E si conferma. La riavatturi sì, però non tutte. Ci sono varie frequenze che non posso utilizzare. K. Ho capito. Sta diventando Mortuglia comunque, la 27. Mi dispiace dirlo, ma dopo Mortuglia. Puglia, quasi schifo. Io dico una città grande come Sassari, io ogni volta che esco un cazzo vedo un casino di antenne, ma nessuna che non ho, che moduli le cose, è una cosa allucinante. E vabbè, pazienza, però guerra purtroppo. Se entra una gara, ma se non entrava nessuno. Ma tu si guarda. Poi alla fine poi discorsi, accendi oggi e non senti nessuno, accendi domani non senti nessuno, accendi dopo domani non senti nessuno, alla fine di lui. Chi me lo fa fare? Punto di domanda. È che io già discorsi ti chiamo, li faccio la mattina, non è quello il problema, per dire. Mattina sento a Gigi, sento altri... altre persone, così che il discorso di noi io non faccio. Io parlo tra di noi, cioè parlo la sera, dove è morto lui, ragazzi, non so che poi è venuto. Ma lo so, e vabbè, comunque, è la mattina, ma così mi bagano dentro. Ma anche se mi alzo, poi riesco a dormire, non faccio un baracchino. Ma è anche uno per ascoltare, uno per entrare. Positivo. Positivo che positivo, bo, vabbè, pascescia. E anima lunga che fino a 4, cazzo, non si è più sentito, eh? Anima lunga non c'è abitato più, cioè, si è preso una casa, mi sembra. Ah, ma non te la c'è una casa della madre, allora. Gara de noche. Si è preso la casa, ma si deve sposare, si deve, o convive con la sua donna. Allora, per quello. E anche in macchina ne ha più di cosa? Di apparato. Allora. Non ho capito, scusa. Ma in macchina non c'era più l'apparato. No. Ma anche l'antenna ha staccato. Sono un mosso lasciato, non ho davanti e basta. E infatti non sta più entrando neanche dalla vettura. Ma Flavio lo conosci troppo bene. Stavo magari un po' un periodo, non è andato, non entra più. Poi, sotto non te l'ha fatto. Ah, così, e io la Cocco. Vabbè, ognuno patrisce i pari di piazza, a me mi interessa. Dai, vabbè, chi servi? Ognuno è libero di fare quello che vuole. Si conferma, dai, si conferma che si conferma. Sì. Ma non interessa, non interessa. Io ho 10 anni che non entravo. Così, vabbè, non è che l'ho lasciato perché mi sono rotto le balle, l'ho lasciato perché disturbavo, mi tenevo dal capo, ora mi sono arreso. Sono stato lì a bisticciare con persone che abitavo qua. Sono staccato tutto, ma giù mi dudo tutto. Poi ho riprovato, sempre puntato a capo. Ma la prova non era il mio, comunque sia. Quando hai una tradizione vecchia, è quella la musica, capito? Vabbè. Abbiamo sorvolato, perché se non è il infatti quando io ho chiamato a Cagliari, che non ho fatto neanche la disdetta, non stavo più pagando, ho spiegato un po' la situazione. Ho detto passa così così, io purtroppo non ho più pagato perché cioè, ho staccato tutto, ho venduto tutto, gli ho detto che mi trovavano al cavo, ma perché lì non ci ha chiamato a noi? Non potevano parlare, lo sai, se chiamavo a loro tramite la scorradio, a che casino avevo passato, vedi? Io per coso non ho fatto niente. Perché magari non era il tuo il problema, ma era di loro. Poi c'è una televisione di quelle vecchie, vecchie, vecchie, cazzo dello Tuzento. Grazie, yeah, ragazzo per te. No, vabbè, ma adesso con lo digital terrestre queste cose non succedono più. Prima succedeva, prima a me era capitato anche, te l'avevo detto a poco, e sequestrato un telefono, ha detto signora, faccia una cosa. Lascia stare i telefoni cinesi e si prendeva sì che si prende un telefono come si deve. Beh, questa signora ha fatto così e non è solo pietrato al telefono, capito? Lo so purtroppo. Io mi fratello dietro nella radio, c'è un impianto stereo qua. L'antenna è proprio dentro la camera. Insomma c'è un'antenna così volante, no? Cioè guarda, c'è un'antenna ho messo, in modo che prendo le stazioni, la non lo sto più usando, l'ho acceso, ho messo tutta la frequenza, parlo, nel mio non entro, perché nel suo entro? Tutte le domande, perché nel mio non entro. Come ti vai? Ma qualche dispersione, qualcosa c'è. Non fatto, non mi hai chiamato un cazzo. Prima la TV, oggi bisogna già la TV, sì, non è un'idea tu. Con questo macchino c'è entrato, con questo macchino non c'è niente, non so, comunque faccio la TV nei canali alti, ma non nei canali alti, nei canali bassi normali no. A secondo, dal giorno che mai pioveva, so che cosa entravo nella TV. Ah, capito. E magari dipende anche dai giorni, è vero, dipende anche dai giorni. Vabbè, comunque. Ho avuto guerre qua, che non ne ho un'idea. Me lo posso immaginare, ma ho notato, visto dove abita Mario e Gio Maria, c'è un'antenna attaccata sul terrazzino che dà di fronte alla colonna terra della casa Siena, ragazzi lì. Ma è un'antenna strana, grossa, con lo stilo grosso. Cos'è, antenna Wakena quella? L'antenna è esatta, penso sia una di quelle che si attacca sulla vettura. Però c'è lo stilo grosso, dovrebbe essere una antenna di VHF. Non so tu, non so dire perché. Dove praticamente vicino? Dove abita Mario e Gio Maria? Proprio lì, se tu alzi la testa sulla fermata entrare risulta tu. C'è il terrazzino e c'è un'antenna grossa, con lo stilo grosso, dovrebbe essere un'antenna di VHF per vettura, lì piazzata nella ringhierina che c'è del terrazzino, dai. Non c'ho presente Antubo. Però fissato andare lì, ma di che volta anche noi, ma la fotti più un cazzo, no, non mi interessa. Tanto è fissato, come vedete, passano una zona per dire, no? Dicevo, ma di che va questa antenna, buh, ma non c'è un'altra zona, ma di che va questa antenna, ma poi se tu mi fai un giro lì all'altra no, c'è pieno di antenne, ma non cazzo più nulla tu, assolutamente, no, prima ero proprio, boh, c'era la voglia di parlare, di fare, di organizzare, poi ci organizzavamo noi con gli altri, adesso non andavamo più, allora prendiamoci un caffè tutti assieme, ma tipo Desi, quindi di Bassoni, stavo sempre io a Bardita e venivano lì, venivano gli amici. Eh sì, sì, sì, e beh, poi man mano che poi non entrano più, è ovvio che ci sono delle sere che accendi, lì stai ore e ore con la parata accesa, sempre con... sempre quel rumore cazzo piscio che ti strappa le orecchie. È brutto perché quando non entra nessuno non hai argomenti, discorsi da fare, c'è proprio la più fine ti stufi. E vabbè, comunque. Prima c'era, adesso non più, no, la vita non attiva più, non so perché. E vabbè, magari tu c'hai altre. Altre sbagli, altre cose, è ovvio che poi non ti attira più. Ma infatti, vabbè, no, non è quello, non è perché c'è il computer, ci mancherebbe, però no, molte volte il computer non mi va e mi cazzo sempre in un punto, molte volte cambio, ecco, anche se il computer qua è acceso, ma così per salutare gli amici, qualche amico ce l'ho, più di uno. Beh, per esempio Mauro, da tutta la provincia di mettersi questa antenna di entrare, e va a mettere il treno, boh. Boh, non lo so. Ci sono sentiti da poco, Mauro, la domani lo chiamo dopo di roba. Kappa. Adesso non so se il motivo è perché è impegnato per altre cose, non sapevo da dire. Ma ultimamente entrava anche la mattina quando stavamo andando a lavorare, entrava, ci facevamo il nostro discorsetto, capito, prima di entrare a lavorare, la sera, adesso proprio, non sta più entrando, mi ha detto, siamo sentiti da poco, sempre in radio, mi ha detto che era impegnato, stava festeggiando, non so che cosa, stava ascoltando degli amici, da giorno più sentito. Quanto sta dando un messaggio? Sì, dai, io faccio quello che ti dai. Alle prossime, io faccio una nuova nanna. Se ti ha voluto le migliori, alle prossime. Ciao, Rogaria. Ciao a tutti, buonanotte, alla prossima. E io, ciao.